Sono le 7:30 minuti primi, giovedì 13 settembre. Seconda mezz'ora di pane, burro e rock and roll. C'è l'Ariele Spadino e Roberto Fricanton. Soprattutto ci siete voi al 335-100-7777. Ciao a Filippo che ci dà il buongiorno. Tracu Tracu Forever, gruppo ascolto amici della Terry Fox Run, la corsa della speranza per la ricerca sul cancro, domenica 7 ottobre, partecipate numerosi, con 10 euro fate del bene, poi gran buffet! Gran buffet! Mi piaceva questo gran buffet, ho voluto ridirlo. Salutiamo anche Graziano, che ci segnala che il nostro tormentone Tracu Tracu, o meglio, nello specifico Tracutra, lo faceva anche a Batantuono nel film in cui faceva il tassista. Sto andando a Trento per 5 giorni di lavoro, non vi dico la voglia. Buona giornata, ciao Graziano, resisti, tieni duro. Grazie per la segnalazione. Tracutra, hai ragione, bisognerebbe andare a riprenderlo. Aiuto, scrive qualcun altro, al primo giorno di scuola è triste lo scopo per cui oggi sono tornata ad ascoltarvi. El Wood da Firenze. Ma si inizia di giovedì la scuola? Siete un po' così voi a Firenze? E comunque, ciao, strombazzata, da contratto. In coma, come sempre, vi saluto. Firmato Mad Friends. Beh, oggi sei in buona compagnia. Mad Friends. Perché nello specifico anch'io non sto messo benissimo. Sarebbe bastato dormire, essere conciato così, ma sapete, a volte noi rocker, perché andare a dormire quando si può vivere tutta la notte e poi fare una bella diretta alle 7 del mattino? Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. I said, blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.

questa nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, finalmente qualcuno si è accorto di noi e ci danno man forte, soprattutto ci pagano gli stipendi. Puntata numero 9 di Pane, Burro e Rock and Roll in un uggioso giovedì 3, no, uggioso forse no, sai, è che io non vedo il cielo, io vedo il palazzo di fronte, quindi non so esattamente come possa essere là fuori. Sono le 7:41 minuti primi, c'è la Riele messo male in diretta quest'oggi, che prosegue facendo i saluti ai suoi radioascoltatori preferiti. Oggi vi ascolto dal primo minuto fino alla fine, dato che sono in viaggio per Bologna, alla volta dell'ospedale, per fare assistenza tecnica in sala operatoria di emodinamica. Questo per farvi capire cotanti radioascoltatori che abbiamo. Mi dite le frequenze lungo il tragitto Savona-Bologna? Caro Marco, guarda, mi sa che non ci ascolti fino alla fine. Risponderò così. Un saluto anche a Lola. Inizia la giornata con voi. È arrivata la mia cartolina da Singapore? Me ne ricordo una cartolina da Singapore, sì. Anche quest'oggi andremo a scoprire qualche altra cartolina delle tantissime che ci avete inviato qui ai nostri studi. Un saluto al nostro gruppo d'ascolto napoletano, sempre rappresentato da Gianfranco, che quest'oggi mi scrive un sms che andrò a interpretare, perché me l'ha scritto giusto per farmi prendere la dizione esatta. Gianfranco, spero di dirlo bene. Uè, guaio, aiere tagge viste per televisione. Hai sentito anche televisione, l'ho detto bene. Ma a una barba in faccia, quando è ta lieve che stai malamente? Grazie, guaiù. Salutami, Fricanton. Ciao, Gianfranco. Numero uno. Andrea, l'ultimo, dai. Ieri sera volevo venire a vedere i Pay, ma non ce l'ho fatta. Stamattina devo andare a Torino e quindi perderò la frequenza verso le 8. Strombazzata. Eccola qui, caro Andrea, beccata. Hai fatto male a non venire ieri a vedere i Pay. Grande spettacolo. Ne approfitto per salutare Serena, la nostra webmaster, che ieri sera si è presentata. Brava. Gli amici The Fire, che gozzovigliavano per Milano e sono passati di lì, nella figura del buon Olli e del buon Alex, che è sempre un piacere andare a vedere. Sono certo che in questo momento non mi stanno ascoltando, però magari, che ne so, se vanno a riascoltarsi la puntata grazie a RadioRockFM.com potrebbero servirci. Va bene, avete bisogno della sveglia giusta? O meglio, anzi, la lancio così: avete bisogno di fuoco? I am the god of hellfire. Lui è il dio del fuoco dell'inferno e vi dà fuoco. Arthur Brown, yeah. Fire. Fire. Thank you. sa cosa le voglio dire, DJ Ariele? Che leggendo queste cartoline, il retro di queste cartoline, sì, guardando anche la copertina di queste cartoline, ho scoperto che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rock FM, di Pane, Burro e Rock and Roll in particolare, sono molto avanti. E mi aiuti a ripetere... Avanti! Come lo dice bene, andiamo a salutarne altri tre anche in questo momento. Beh, questi sono parecchi: Andrea, Barbara. C'è da dire che sono firmate male queste cartoline. Potrebbe esserci sempre un veloce, cicalo, sempre fatta troppo veloce. Grazie a voi che ce l'avete spedita, presumiamo dalla Grecia, visto il francobollo Hellas. Sì. Al pane scrivono: ci pensa la vecchietta, il burro abbonda e il rock and roll ce lo mettiamo noi. Saluti a Freak Antoni, il nostro DJ preferito, l'Ariele, dalla Grecia, da un gruppo di rocchettari del Chianti. Mi descriva subito l'immagine. Ma naturalmente c'è immediatamente da dire che questa è una delle cartoline più originali che ci siano mai arrivati. Sì. Laddove una vecchietta tutta vestita di nero, con tanto di fazzoletto sulla testa nera, tutto quanto in nero, sta infornando un panone, una sorta di forno a trullo, lo sta infilando dentro. E questo era per pane, burro e rock and roll. Grazie, che acume hanno gli ascoltatori della trasmissione dalla Grecia all'Adriatic Sea, ovvero il mare Adriatico. Il mare Adriatico, ma forse questa viene dalla esotica Croazia, o sbaglio? Un gabbiano di mare. E un'onda che si infrange. Si infrange sullo scoglio, il gabbiano guarda l'onda e forse riflette. A Rock FM la cartolina croata, ma lei ci ha azzeccato. Sì, l'avevo più detto rock del mercato, con un gabbiano modestamente posticcio. Si firmano Amedeo, Pastore, Joe da Milano. Grazie amici, anche grazie, voi dalla Croazia e dall'Adriatic Sea. Grandi, posso solo segnalare il francobollo, laddove si mostra in questo francobollo una specie di scarafaggione, in realtà è uno scarabeo di una certa importanza dal punto di vista del catalogo degli insetti. Farei un ultimo veloce viaggio fino a Tenerife, se le va, con questa immagine targata Bananas, dove possiamo intravedere un signore, un anziano raccoglitore, un po' l'uomo di banane, del monte potrebbe essere, è questo, vero, che coglie un grappo gigante, un casco immenso di banane. L'amica che si firma Rossella, ex ascoltatrice passiva, e Miki Uzi Glam sentenziano: la banana è rock, cordialità. Grandi, sempre molto avanti le ascoltatrici di Pane, Burro e Rock. Senta, la banana è rock, sì. DJ Ariel, sì, la banana è decisamente rock. Lei ricorderà la banana della famosa copertina di Andy Warhol, certo, quella dedicata ai Velvet Underground. Certo, ecco. Certo. Ma io le voglio fare un'altra domanda. Si dice casco di banane o caspo di banane o cosa altro caspo si può dire? Lei vota casco? Lei mi ha fregato. Lei vota caspo? Casco. Viva le banane, comunque. Lei casca comunque sul morbido, sul burro di pane, burro e rock and roll. Ho la metafora sfrenata quest'oggi. L'ha notato DJ Ariele? Mi faccia i complimenti, su, me li facci. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to this song that was floating on the breeze. Look. with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said. I was hoping. The Gold Rush, Neil Young e la sua voce tremolante alle 7:54 minuti primi sulle frequenze di Rock FM. C'è un Ariele con poche ore di sonno arretrato che vi augura ancora la buona giornata, e come sto facendo da queste prime 9 puntate di Pane, Burro e Rock and Roll, vi invito a partecipare alla nostra missione militare con nome in codice Davide contro Golia, alla quale ogni giorno voi partecipate via SMS piuttosto che via mail, piuttosto che via telefono. Andrei a segnalare una tripletta di SMS che ha rapito la mia attenzione bassa questa mattina, ma l'ha rapita lo stesso. Il primo è Tommy, ti chiedo scusa tra l'altro per il ritardo, ma chiedeva aiuto al nostro buon mister Trombetta. Mi serve Spadino oggi, Trombetta, mi sveglia un attimo, perché ha il recupero del debito di latino quest'oggi ed è un po' nervosello. E allora Tommy, ti abbiamo strombazzato, stai in una botte de fero. Un altro SMS ha riferito al nostro tormentone tracutracutracutra. Mauro, sei veramente avanti, è il primo che mi scrive una cosa di questo tipo. Lui scrive così, toglimi la base Spadino che provo a interpretarlo. Tracutracu cutra cutra e sentenzia in levare c'è più gusto. È giusto che tra cutraco è dritto, cutra cutra è in su e in levare. Guarda Mauro che sei avanti, eh. Grazie mille per l'SMS. I musicisti all'ascolto, chi mastica in maniera elementare di musica, capì, il levare va in su, insomma. Guarda, è inutile che cerco di spiegarvi cos'è il levare adesso, perché già farei difficoltà, cioè no, glielo spiego cos'è levare. Facciamo una battuta di 4/4, è 1, 2, 3, 4. Il levare è un cioè se fai con la mano vai giù, no? 1, 2, quando vai su è levare, no? Quello è levare, 2, quello è levare. Quindi tracu tracu, cu tracu tra. Grazie Mauro, e chiedo scusa a chissà cos'è levare, perché si è reso conto che sono messo malissimo. Un ultimo SMS che esprime l'angoscia di alcuni di voi là fuori. Ve lo leggo perché secondo me è un messaggio che fa riflettere, sicuramente chi l'ha scritto. Paolo: caspita, la mia donna non mi considera e non so perché, non sa che ho l'amante. Caro Paolo, rifletti su quello che... riflettici tu in prima persona su quello che hai scritto. Non si capisce se un po' vorresti farglielo sapere per farti considerare? Stai messo male anche tu, Paolo. Sei dei nostri. Tu, Paolo, sei in squadra con noi. Burro Rock and Roll ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal tartaro. Pane, burro e rock and roll. La forza delle gengive, la vita dei denti.